Buonasera, buonasera, ben ritrovati a questa nuova puntata di Meteo FM. Chi vi parla dagli studi di Radio Città Fujiko è Claudia Mighty Mau per questa 12ª stagione. Avremmo voluto fare una trasmissione dedicata a questo disco, a quest'artista, come chiusura della scorsa stagione. E invece un po' per motivi di tempo, perché è un tema abbastanza impegnativo, non ci siamo riusciti, abbiamo deciso di metterla come apertura a questa 12ª stagione. È un po' complicato parlare di questo artista e della sua produzione, probabilmente non ne saremo all'altezza, ma lo facciamo lo stesso sulle note di questa nuova sigla per la 12ª stagione. Abbiamo cercato insomma una versione veramente oltra dell'Inno alla Gioia, dopo averne trovate di versioni più svariate. Ma solo in questo caso la faremo sentire in versione intera. Per le prossime trasmissioni ve la risparmieremo. L'artista di cui parliamo in questa trasmissione è Arca, ovvero Alejandra Gersi, Venezuela, poi New York, poi Londra, attualmente Barcellona. L'album si chiama Kick One, anche se è stilizzato con la I minuscola e non con l'uno, e come al solito il pezzo di partenza è il primo, è Non Binary. I do what I wanna do, wanna do it. I take out the bags to prove it. Hips to move it around and make shapes, yes. Trim the waist off and the waist down, girl, it slipped off. It's French tips wrapped around a dick. Do you wanna taste? I don't give a fuck what you think. You don't know me. You might owe me. But bitch, you'll never know me. Ask me how I got here. Bitch, I work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky. And I've been unlucky. It's both. Don't put your shit on me. Bitch, I'm special, you can't tell me otherwise. That'd be a lie. Who do you think I am? It's not who do you think you're dealing with. No, cause you're not dealing with. There's no deal. Bitch, it's real on my side. Go ahead, speak for yourself. Go ahead, speak for yourself. Cast the first stone if you wanna be a puppet. Better yet, speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. You'll forget. States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Un pezzo che è proprio una dichiarazione di guerra, il dichiararsi non binaria ma identificarsi allo stesso tempo come donna trans nell'ambito di un percorso che è durato diversi anni, ma invece quello musicale è molto più lungo di quello che noi immaginiamo. Hi, my name is Nuro and I'm an alcoholic. Nuro era lo pseudonimo che Alejandro Gersi ha adottato da adolescente quando ha cominciato a fare musica a Caracas. Nata a Caracas, dai 3 ai 9 anni vive negli Stati Uniti perché il padre è un banchiere di investimenti, quindi è andata a vivere per qualche anno negli Stati Uniti, è tornata a Caracas a 9 anni, ricca, privilegiata, collegi privati, possibilità di viaggiare, accesso a anche strumenti tecnologici, a internet, un internet kid fatto e finito che comincia a fare musica, e ci sono tante produzioni a firma di Nuro, a partire dal 2005-2006. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Not Again, è il pezzo di apertura di All Clear, suo album del 2006, a cui abbiamo aggiunto un altro pezzo, Avila, del secondo album The Red Dust Ruby del 2009, è proprio una versione casalinga adolescenziale fortemente influenzata, come potete sentire, dai Postal Service, secondo me. E tornando a Non Binary, il pezzo di apertura è proprio una dichiarazione di intenti celebratoria della sua identità, del fregarsene delle convenzioni, del giudizio delle persone per il raggiungimento di un'identità che appunto è stata raggiunta in modo molto faticoso nel corso di anni. È una canzone in cui Arca introduce il concetto di self-states, nel senso che noi siamo un sistema di personalità multiple ed in continuo mutamento, in continua transizione, in continuo flusso. E quindi l'idea alla base di quel pezzo è proprio l'integrazione e l'inclusione, ma poi alla base proprio di tutta l'opera di Arca, del disco in generale. E dopo aver sentito le sue prime produzioni come Nuro, ci sentiamo questo pezzo invece tratto da il primo EP a nome Arca, era il 2012. Alejandra Gersi è nata nell'ottobre dell'89, quindi comunque sempre molto giovane. Nel 2012 esce questo primo EP, Baron Libre, questo pezzo che sentiamo si chiama Little Now A Lot. E si sente già appunto questa tendenza al mashup, a mischiare influenze diverse, stili diversi, a questi cambiamenti bruschi. With a new white tee, you fresh, feeling phony with us. Make the money, get bounce to, with a new white tee, you fresh, feeling phony with us. Little now. Ritorna appunto in Venezuela nel 2000 e... non lo so, fate voi i conti, a 9 anni... nel 98, però già a 17 anni ritorna negli Stati Uniti perché viene accettato alla New York University e comincia a frequentare il Clive Davis Institute of Recording Music. Quindi a 17 anni si trova catapultato nella realtà newyorkese, perché comunque insomma la sua vita a Caracas, vivendo in una gated community, appunto queste case per sicurezza, insomma, le persone ricche hanno queste comunità recintate con le guardie ai cancelli d'entrata, stava catapultato nella realtà newyorkese e scopre un sacco di cose. Smette di fare musica per un po', vuole mettere uno spazio tra quello che faceva come Nuro da ragazzino e la sua nuova identità musicale che sente insomma crescere. Ma adesso siamo arrivati alla seconda canzone di Kick One, il secondo singolo anche. I video sono incredibili, come tutte le produzioni di Arca negli anni passati, con la collaborazione di Jesse Kanda, adesso con altri collaboratori. Il video di Non Binary è un'orgia visiva incredibile. Il video di Time è stato girato in parte durante le sue performance, 4 serate performance nel 2019 in uno spazio performativo di New York, The Shed. È già molto un contrasto notevole rispetto al pezzo d'apertura e questa invece delicata ballata synth pop. Yeah. questo caso il tema è appunto la lotta compiuta per arrivare dove si vuole arrivare, con il tempo, con la pazienza, con la tenacia i tuoi sogni si possono realizzare. E lui dice: volevo che fosse come un bagno di bollicine che ti coccola. E è l'espressione più gay della mia personalità. Dice: strano magari parlare di aspetto gay, visto che adesso mi identifico come donna trans, ma io pensavo a Kylie, pensavo a Madonna. E questo suono di synth suona gay per me in modo meraviglioso. Ma non abbiamo chiuso con Nuro, mi è piaciuto davvero tanto ascoltarlo e scoprirlo, e scoprire che nel 2008, dopo un inizio molto postal service, probabilmente deve aver anche ascoltato i Valenciani a Strud, perché canta in spagnolo e i suoni mi ricordano tantissimo delle canzoni di quel bellissimo album del 2007, appunto, che era Tu No Existes. E il suono d'apertura di questo pezzo, che si chiama Diamante, preso appunto questo EP che si chiama Amigos, mi ricorda dei suoni che ultimamente ha ripreso per esempio Baio. E ci ascoltiamo due pezzi tratti da questo EP, Diamante più ABC. Lento, no sé qué ser, te quiero ver. E lui racconta della sua adolescenza, quando faceva musica come Nuro, che a un certo punto, insomma, è stato un po' ripostato dai blog, anche firmato un contratto, quindi era diventato un po' più popolare. E sebbene lui scrivesse queste canzoni d'amore così generiche, dove non c'era un pronome, non c'era un genere identificato, è diventato più popolare a scuola. Ovviamente era consapevole della propria sessualità, ma non riusciva ad accettarla, aveva anche cominciato ad avere la storia con una ragazza e pensava che la vita sarebbe stata così, si sarebbe sposato e la sua vera identità non sarebbe mai emersa. Ma invece coltivava delle amicizie online che poi sono state veramente cruciali nello sviluppo della sua artistry, ovvero essendo un internet kid e avendo anche i mezzi, e vabbè, studiando anche piano, che dai 9 ai 17 anni, che quindi ha anche contribuito alla sua bravura proprio come musicista, entra a far parte di questa comunità di un sito che si chiama DeviantArt, dove a 13 anni diventa amico di internet a distanza di Jesse Kanda, che viveva a 4.000 km di distanza, aveva anche un paio d'anni di più. Solo 6 anni dopo si sono conosciuti di persona ed è iniziata la loro pluriennale collaborazione. Ma appunto gli album, i lavori, scusate, a nome di Arca cominciano ad emergere nel 2012 a New York, una vita nuova, un ambiente nuovo, totalmente sconvolgente. Mi dicono dalla regia che DeviantArt è famosissimo, infatti mi era familiare come nome. Lui si era fatto una promessa, lui quando era lui si era fatto una promessa, lei quando era lui, di non mentire mai nella propria musica e arrivando a capire che c'erano un po' questioni personali un po' da risolvere a livello proprio di personalità, di identità, smette di fare musica e poi quando ricomincia con lo pseudonimo di Arca fa della musica tendenzialmente appunto strumentale. Due EP, Sketch 1, Sketch 2, stiamo ascoltando due pezzi da Sketch 2. Questo primo si chiama Maiden Voyage o Voyage, seguito da Broke Up. Questi EP influenzati dall'hip hop, ma c'è già la sua cifra stilistica. Di qualcosa di plastico, metallico, elastico. Arca dice che fare musica è tirare i bordi dei suoni fino a renderli elastici. E fa parte di una generazione, tra l'altro Vice l'ha nominata l'artista del decennio degli anni 10. Di grandi sperimentatori, non a caso, nella quasi totalità queer, penso a Lotic, a Rabbit, a Elisa Crampton, a Gaika. Rumori metallici, vetri in frantumi, come un selettore di radio impazzito che cambia generi, volumi e ritmi diversi, cosa che Arca predilige fare nei suoi DJ set, dove per il 90% suona musica sua, tracce musicali composte da lei che nessuno oppure cose che nessun altro conosce. E questi lavori, grazie a questi lavori, appare nel radar di Kanye West, che stava lavorando alla produzione di Jesus. E ho letto appunto in un'altra intervista che appunto quello che può succedere solo a degli artisti nell'era digitale, un attimo diffondi la tua musica, sono in rete e il giorno dopo ti trovi a collaborare con delle mega superstar. Ma siamo arrivati alla terza canzone di Kick One, nonché terzo video, Make Trefe. Mami quiere make trefe, ella se lo merece, mira como se crece. Ella vino caminando desde su casa. Ella no toma taxi, que la vean en las calles. Ella no toma taxi, ni Uber, ni Lyft, que la vean. Mami quiere make trefe. Y sabe que tiene la personalidad, le da, le da, le da, le da, le da, le da, le da, y valida, mira su pasito, le da. Anche questa è una canzone in cui rivendica anche un termine come quello di mechetrefe, che è un termine derogatorio, insomma offensivo, che definisce insomma un maschio un po' debole, un po' forse anche fastidioso, non so se molesto. però è anche un termine che significa gran casino, quindi anche come sinonimo di grande festa, di confusione. È ancora appunto un pezzo in cui lei, Alejandra, rivendica la sua identità parlando di sé alla terza persona, lei che vuole un mechetrefe, che se lo merita, guarda come cammina per la strada, lei non prende il taxi, che la vedano nella strada, lei non prende il taxi per andare alla festa, perché tanto le dà guarito quello che pensa la gente di lei. E c'è anche un discorso molto interessante del fatto che dal 2018, dopo l'incontro con il suo attuale compagno, un cruel artista multimediale, Carlos Saez, a cui sono dedicate tante canzoni d'amore di questo disco, è andata a vivere a Barcellona deliberatamente per vivere la sua transizione in un luogo che un po' la riporta alle sue radici, essendo comunque non ho mai vissuto in un paese latino a parte Venezuela, avendo vissuto prima a New York e poi nel 2014 a Londra. E quindi ho deciso di andare in un paese che è un po' conservatore su certi temi ancora, perché diciamo che a New York, a Londra c'è quasi come l'ambiente che ti incoraggia, ti sostiene in tutti i modi, invece lei voleva che questo suo processo di transizione fosse la cosa più spontanea, fatta personalmente per sé, e che la esponesse anche ad eventuali giudizi per la strada, sguardi, commenti. E quindi voleva essere consapevole, essere sicura del fatto che a livello spirituale questa transizione era qualcosa che voleva fare per se stessa, non perché parte di una certa scena. Perché io personalmente nella mia storia l'ho visto che in certi ambienti LGBT, tipo negli anni, fino agli anni 90, c'era una comunità anche di lesbiche in cui un po' fare la transizione, prendere il testosterone era diventato un po' una moda. Il pezzo che stiamo ascoltando adesso è stato uno dei primi lavori di produzione che forse ha lavorato forse più come produttrice all'inizio della sua carriera come Arca che non pubblicando dei suoi lavori. Questo è Dean Blunt, il pezzo si chiama Demon, è molto bello. L'album si chiama The Redeemer, è stato appunto uno dei primi lavori di produzione nel 2013, stesso anno di Jesus, che ascolteremo dopo, un pezzo su cui Arca ha lavorato. Dean Blunt, pseudonimo di Roy Nawuchi, britannico, membro degli Hype Williams. Che poi ha continuato a fare musica anche con un altro pseudonimo, quello di Baby Father. Quindi, facendo un po' il riassunto già delle valanga di informazione già esposta finora, siamo arrivati nel punto in cui, dopo una produzione abbastanza intensa da adolescente con lo pseudonimo di Nuro, Alejandra Gersi, allora Alejandro Gersi, closeted gay, si trasferisce a New York City, dove viene appunto travolto dalla realtà della vita, delle grandissime opportunità di quella città che non dorme mai, come si dice, entrando nella comunità dei party, che non so come si pronuncia, è GHEJC20 Gothic, organizzati da dei DJ che sono stati veramente dei maestri di vita e artistici fondamentali per Arca. E quindi anche l'ambiente era un ambiente super queer, super all'avanguardia per quanto riguarda appunto mischiare i generi, il caos, la nuova tecnologia, anything goes, e soprattutto quindi che ha favorito la sua presa di coscienza della sua identità come maschio omosessuale, e quindi ha cominciato fondamentalmente ad avere una vita. E sceglie questo pseudonimo di Arca, il cui significato è quello di contenitore cerimoniale, che può essere riempito con quel che si vuole. E quindi quasi un ripartire da zero dal punto di vista musicale, il ripudio della propria voce, un contenitore da riempire di cose di valore. Di qualunque musica o significato. In realtà dall'estate del 2011 c'era stata una pubblicazione a nome Arca, ma non ho capito se si fa riferimento a quello che poi è un mixtape di 25 minuti che è stato veramente rivelatorio. Ricordiamo degli EP nel 2012, Kanye West che lo convoca insieme agli altri 2000 produttori, compositori del suo disco, lavoro di produzione per Dean Blunt, e nel luglio 2013 esce appunto questo mixtape. E Arca è molto famosa per utilizzare tanti segni grafici di anche dubbia lettura, che in molti casi non sai proprio come interpretare, come leggere, che come spesso ho detto in questi ultimi anni ci sono tanti artisti che nel loro nome, nei loro titoli puntano molto su dei segni grafici, perché d'altra parte la maggior parte del nostro tempo di veglia lo passiamo davanti guardando qualcosa, uno schermo tendenzialmente. E questa prima mixtape si chiama And, ovvero 5, sempre gruppi di 5 tendenzialmente, questi segni grafici e commerciali. E questo mixtape è stato ripubblicato proprio adesso, per la prima volta avrà una veste fisica pubblicata dalla PAN, l'etichetta di Berlino. Ed è da questa release che stiamo ascoltando due pezzi, il primo Fossil e questo Coin. In realtà bisognerebbe fare una trasmissione di 8 ore su Arca, non solo per la ricchezza delle sue produzioni, ma anche per gli strati teorici, filosofici, esistenziali. Ho letto tantissime interviste e alcune sono proprio... Non si parla tanto di musica, ma appunto di identità, di politica, anzi del sostituire la politica con la filosofia invece di litigare, perché la politica c'è sempre qualcuno che pensa di aver più ragione dell'altro. Sostituiamo la politica con la filosofia, in cui magari parliamo della stessa cosa, lo stesso termine, lo stesso concetto, lo interpretiamo in modi diversi, ma siamo d'accordo che possiamo non essere d'accordo? We agree to disagree. E siamo arrivati ad un altro pezzo di Kikwan. Si chiama Rikiki. Una rosa blanca de metal, de tal pa' cual que tal. Mira la chupal, la beba de un mango bajito. Un menemeneme meadito, chiquitito, sabrosito, Rikiki. Rikiki, che è un vezzeggiativo, significa piccolino, carino. Como la mayonesa fresca, blanca en la mesa. Como mayonesa, un tiro en la cabeza. Mira mi destreza y saca. A la niña le sale el show, le sale tempo, le sale reggaeton. No vale que no, no vale que no, papi. Papi. Forse questo è uno dei pezzi che ricorda, a parte il cantato in spagnolo rappato, ricorda musicalmente le sue produzioni precedenti. È la prima volta anche che canta in inglese. Avendo già recuperato l'uso della voce e dello spagnolo nel terzo album del 2017, l'omonimo Arca. Che in questo disco Kikwan alterna appunto con l'inglese, per un progetto che, non l'abbiamo detto, si presenta come il primo di una quadrilogia già più o meno delineata nella sua testa. Ecco, per me questo è stato uno dei dischi più ascoltati dell'estate, e spesso questa frase come Nagata in camera lenta, come Nagata in slow motion, non so se fa riferimento a, c'è un calciatore che si chiama Nagata, e questo è appunto uno dei pezzi su cui ha lavorato con un'altra miriade di collaboratori. Send It Up da Jesus di Kanye West 2013. A me sta antipatico e non piace, l'ho detto. And they both suck like they came to lose. Dropped out first day of school, cause niggas got cocaine to move. I be going. Appunto, un momento. Ti conoscono solo poche persone sul web, e poi arriva questa chiamata. E comunque Arca non ha mai voluto, insomma, vantarsi troppo di questa cosa. Anzi, dicendo che, vabbè, ovviamente era abbastanza intimidita, sentivo che c'era, insomma, abbastanza pressione, ma quando gli è stato chiesto di mandare dei pezzi di musica per Kanye West, lei ha detto: mando le cose più strane, più what the fuck possibili, immaginabili, perché semplicemente è quello che sono, è quello che sto facendo adesso, non voglio compiacere o piacere per forza andando incontro a dei supposti desideri. Però ovviamente poi ha sentito la pressione, e alla domanda se si è mai sentita un po' sfruttata, perché appunto è stato detto che Kanye West ha preso da Azo Mochi, da Ivan Christ, da questo nuovo vivaio di musicisti che facevano cose nuove, proprio fringe, cutting edge, non so come dire, è un po' se ne è appropriato. Ma lei sostiene che no, non si è sentita, diciamo, sfruttata. e finisce Sandy Rap, e nel 2014 c'è il debutto con il primo album con il quale l'abbiamo conosciuta, Xen. Questo è un collage di tre pezzi che abbiamo anche ascoltato nelle scorse trasmissioni, qui abbiamo suonato Arca, soprattutto quelle per i festival, soprattutto Club to Club, l'abbiamo visto almeno tre volte. E questo è un collage di tre pezzi, Sad Beach, Thievery, che mi emoziona sempre tantissimo, mi fa smuovere, e poi Wound. Perché poi ci sono sempre questi, queste note delicate, questi accordi che io trovo profondamente toccanti e commoventi. La Thievery con i visual inquietanti concepiti con Jessica Anda per dare vita a questo essere antropomorfo, genderless, però femminile, Xen, l'alter ego di Alejandro ai tempi 2014, quando si trasferisce a Londra per essere più vicino al suo compagno d'allora, fotografo e artista Daniel Sandvald, e per dividere un appartamento appunto tenerissimo con Jessica Anda, con cui appunto aveva una relazione simbiotica, e già dall'inizio della produzione, come Arca, i visual delle copertine, i video e anche dei progetti come Trauma, dei progetti video sono stati fatti appunto in strettissima collaborazione. Era come appunto una lettera a se stesso, e la recensione di allora di Pitchfork dice: questa cosa nuova non è un genere esattamente, chiamatelo uno stile, una sensibilità, uno strato di smalto. Ha a che fare con i computer, il suono digitale e l'immaginario digitale. Ha a che fare con la rappresentazione e la malleabilità, l'idea che il suono e l'immagine possono essere stirati, tirati, curvati, piegati, distorti, copiati ad nauseam. Una patinatura digitale. Storia ridotta a una pennetta USB. Wound. Arca dice: questa sequenza di archi ritorna spesso nella mia carriera. Dice una progressione di note e accordi molto vaniglia pop, Hollywood la definisce, però commovente, e che commuove anche noi, e infatti è stata ripresa in una canzone di Kick One che ascolteremo più tardi. Ed Xen, ancora Pitchfork dice, non è necessariamente fantascientifico nei suoi temi, ma ancora qualcosa di inerentemente futuristico per la sua descrizione della tecnologia come qualcosa di tangibile e persino sensuale. E si possono trovare le tracce di questo stile nei lavori di appunto artisti che sono emersi ormai 10 anni fa, come Actress, One of Tricks Point Never, Vivian Christ, FKA Twigs, la Janus Crew di Berlino e anche la scena della PC Music. E si collegava perfettamente a Wound, il suono di Calor, la quinta canzone di Kick One. Una canzone d'amore sempre per il suo compagno Carlos e che ricorda molto come tipo di canzone di cantato dei pezzi di Arca, il terzo album, quasi delle arie. In realtà, a parte alcuni pezzi che mi sono sempre rimasti in mente, forse devo dire che non ho forse mai ascoltato dei dischi interamente dall'inizio alla fine, ma l'opportunità di questa trasmissione mi ha dato appunto la possibilità di immergermi nella tutta la discografia e le mille sfaccettature della personalità di Arca, sia l'artista che la persona, che la stage persona, che la donna. E lei dice di questo pezzo che forse è la canzone d'amore più lirica e felice che ho mai scritto con lo pseudonimo di Arca. Perché per tanto tempo io ho pensato, quando è che troverò qualcuno che posso amare e con cui davvero sentirsi me stessa? E davvero non volevo innamorarmi quando ho conosciuto Carlos, non lo stavo cercando, anzi lo stavo evitando. E invece le parole di questa canzone sono venute fuori in modo assolutamente improvvisato, registrate in una sessione come tanti pezzi, per esempio i pezzi dell'album Arca sono stati registrati quasi sempre in sessioni uniche con tutti magari gli errori o i rumorini che non sono stati editati. E invece appunto questa canzone, Calor, è appunto abbracciare questa nuova felicità e esporsi nella totale vulnerabilità. Appunto una delle esponenti di questa nuova scena è anche Twigs. Con cui Alejandra già lavora just not your head and get up. in EP 2 nel 2013 e poi in LP 1, primo album di FKA Twigs, fornendo sia produzione che scrittura, quindi anche coautrice di diversi pezzi, tra cui questa bellissima Give Up. Talia Debrett Barnett, inglese, conosciuta poi magari da chi non conosceva la sua musica per questione di gossip, essendo stata fidanzata per tanto tempo con Robert Pattinson, che abbiamo visto almeno una volta, forse due. Il cui album Magdalene è stato il migliore per tantissime testate musicali l'anno scorso. Anche Jesse Kanda comincia una collaborazione con FKA Twigs per i suoi visual e video. La caratteristica dei visual e anche la cosa che lo unisce ad Arca è appunto il mostrare magari delle creature che non esistono, che possono essere ripugnanti, che possono essere disgustose, ma la sua è appunto una ricerca su quello che viene considerato disgustoso, ma che in realtà invece è bellissimo, come dice, le nostre interiora, all'interno del nostro corpo, è molto più bello della pelle, eppure ci dà un senso di repulsione che, vabbè, è dettato dal nostro istinto di sopravvivenza. E c'è anche una canzone dedicata a Jesse Kanda nel secondo album, come Arca, Soichiro, che è il suo secondo nome, essendo metà giapponese. E come per Arca, a livello musicale, a livello di contenuto, insomma, quello che la guida è guardare negli occhi le cose che ti fanno vergognare, di cui ha vergogna. Per questo motivo ho trovato sempre questo profondo legame con Jesse, che cerca sempre la bellezza anche in quello che la gente trova disgustoso. Il suo lavoro è proprio capire perché certe cose vanno bene e certe invece immagini provocano disgusto e raccapriccio, e io posso testimoniare che appunto durante un DJ set, credo a Club to Club, era abbastanza disturbante vedere tutti questi visual di, non so, polli, pulcini frantumati, triturati, cose così. Ma siamo arrivati appunto al secondo album a firma Arca del 2015, Mutant, che conteneva appunto il pezzo anche dedicato a Jesse Kanda. Stiamo ascoltando un mix di tre pezzi: Anger, Sever e Front Load. questo è molto toccante, secondo me. È sempre la recensione di Pitchfork che diede un 8.4 Best New Music a Xen e lo stesso voto a Mutant, che però ha una media più alta in generale su Metacritic di 89. Dice: Gersi ha fatto tanta strada in poco tempo, la sua carriera appunto è quel ibrido underground mainstream che può accadere soltanto nell'era digitale, appunto, in cui dei produttori passano da condividere online dei beat registrati in casa a lavorare con le star. E Arca sta facendo la musica elettronica astratta del nostro momento attuale, musica per un'idea di umanità che esiste fuori, al di là della binarietà. L'anno scorso disse riguardo a Xen che è un essere senza genere, che resiste alle etichette e che integra diverse parti di sé. E allo stesso modo i pezzi di Arca non sono mai una cosa fissa, perché la bellezza convenzionale, così come fa Jessica Anda nei video, è distorta, tramutata in bruttezza. L'aggressività esiste a fianco della serenità, caos e forma falliscono nel cercare di cancellarsi l'un l'altro. Mutant, un album di contrasti, e Gersi ha l'incredibile abilità di lasciare che questi estremi interagiscano tra loro per creare qualcosa di nuovo. E la caratteristica della fratturata, spezzata della sua musica acquisisce una grande energia, empowering energy. Non è un ascolto facile. Questa è musica che suona come un essere vivente. E poi c'è una citazione di Gaudì che dice: la linea retta appartiene all'uomo e la linea curva a Dio. La linea dritta appartiene all'uomo, la linea curva appartiene a Dio, e allo stesso modo Gersi trasforma questa fissazione sulla porosità e l'instabilità in una specie di ricerca spirituale. Siamo arrivati al sesto pezzo di Kick Eye. Mi viene di dire Kick Eye perché è scritto appunto con la I minuscola, ma è Kick One. E c'è la riconoscibilissima voce di Björk. E anche in altri punti del disco c'è un chiaro riferimento musicale alla Björk di Homogenic, un disco che è stato fondamentale per Arca. Questa prima parte del pezzo Björk canta in spagnolo recitando un poema una poesia del poeta modernista spagnolo Antonio Machado. A noche quando dormía del 1907. E l'aneddoto legato a questa traccia è che Rosalia abbia dato dei consigli di pronuncia a Björk, che sappiamo ha dei problemi di pronuncia con qualsiasi lingua, ma ovviamente a Alejandra queste sue imperfezioni piacevano tantissimo. Perché Rosalia era uno stesso thread di Mail, perché Arca voleva che facessero un pezzo insieme, invece poi per le varie vari impegni, tempi eccetera non è stato possibile, per cui Rosalia si è trovata lì a leggere le mail e ha detto ti do una mano a pronunciare lo spagnolo. Una poesia che dice: stanotte ho sognato che un alveare cresceva nel mio cuore. E ovviamente ascoltiamo un pezzo di Björk, ovvero Sue Me, tratto da Utopia del 2017. E del pezzo Afterwards che abbiamo appena sentito, Arca dice: quando è uscito appunto Homogenic nel 97, il suo ascolto ha cambiato il modo in cui io ho visto la musica e in cui vedevo, ho visto i video musicali. Perché l'amicizia tra Alejandra e Björk risale al 2015. Arca racconta: una volta il mio produttore, che credo che quando stava a Londra fosse Milo Cordell, uno degli ex membri, perché poi l'ha lasciato, di Big Pink, mi ha chiesto con chi ti piacerebbe collaborare e il primo nome che ha detto è stato Björk. Si sono incontrate alla fine di un tour, credo appunto a Londra, e Björk ha detto: ah, ho bisogno di un DJ per il party, insomma, per festeggiare insomma la fine del tour, mi puoi suggerire qualcuno? E Arca si è fatta avanti come DJ. E hanno definito il loro tipo di collaborazione proprio come il merging, il fondersi l'una nell'altra. E a livello musicale la collaborazione parte appunto con Vulnicura nel 2015, cui Alejandra produce, programma, compone quasi tutti i pezzi. E poi ovviamente torna a lavorare con lei in Utopia, parte produzione, parte composizione. Forse potremmo dire che la maternità di questi dischi è di Björk tanto quanto di Alejandra. Break this curse so it won't fall on our daughters and her daughters. Per quanto riguarda la discografia in generale di Arca, altre cose. Ci sono state altre produzioni, altri output tra in mezzo agli album ufficiali, sempre guidata dalla curiosità, dalla sperimentazione, dalla continua evoluzione. E quindi dopo Xen nel 2014, prima di Mutant nel novembre 2015, nel gennaio 2015 esce una sua composizione dal titolo Sheep, Pecora, che in realtà era la musica per la sfilata di Hood by Air, la linea di abbigliamento assolutamente futuristica, avanguardia totale nella moda, che era poi il progetto di Shane Oliver, ovvero uno dei DJ di quella serie di party G20 Gothic, o come cavolo si dice, che sono stati così importanti nella vita di Arca. Poi arriva Mutant nel 2015. Poi nel 2016 una mixtape dal titolo Entrañas, ovvero Interiora. Avevamo scelto un altro pezzo, ma poi abbiamo letto qualcosa che ci ha fatto cambiare idea e abbiamo scelto questa Baby Doll featuring Mika Levy, un po' prezzemolino anche lei, Mika Chuan The Shapes, ex. Perché sono gli anni in cui, ovviamente, porosa alle influenze, alle collaborazioni, vivendo a Londra nella scena della musica insomma più alternativa e di avanguardia, non poteva non incocciare in Mika Levy. Perché appunto magari ascoltando un po' in modo frettoloso non avevo riconosciuto questo campionamento che avete appena sentito della voce di Liz Fraser, ovvero Cocteau Twins di Beatrix, mi pare, tratto da Treasure, un disco quello veramente seminale per i miei fondamentali, per i miei 14-15 anni. E arriviamo al settimo pezzo di Kick One. Si tratta di un featuring, tra l'altro la curiosità è che tutti i featuring in questo disco sono tutti uno dietro un altro. Questo pezzo si chiama Watch. L'ospite in questione è la rapper di Southeast London, Shy Girl. Y'all like me on a flight daily. It's a lot when I know my mind, do I look vibrate? Cause I ain't got time, no feelings, no exclusive. Your chick knows I can't feel ruthless. Come through, you just don't gas, you're better doing bits, so you ain't like the rest. I'm loose, can't even act right. Two shots and I go mad. We'll talk that through. I forget you don't know that I move like this. Anche questo è un pezzo di estremo self-empowering. E Arca dice: Shy Girl è una bomba, è incredibile. La sua energia è davvero rinfrescante, è proprio figa. Mi piace il suo stile, la sua delivery. E è proprio temeraria, non ha paura di niente. E questa cosa ci lega, proprio la concezione del il livello a livello performativo. Il fatto appunto di non avere paura del giudizio. Di esaltare la potenza, il potere femminile. La dominazione e la sottomissione. E non mettersi in una scatola, dicono somebody in a box, mi va a definire qualcuno in un modo unico. E quindi questa idea di giocare con una sensualità e una sessualità che è appunto quasi oltraggiosa e che non si vergogna. E poi si parla sempre, anche quando c'è l'elenco dei grandi nomi per cui ha lavorato, diciamo, Alejandra Gersi, c'è sempre quello di Frank Ocean. Fondamentalmente in questo pezzo di 26 secondi, Mine, tratto da Endless, e poi per un remix di un pezzo di Frank Ocean, Little Demon, più recente, se proprio di adesso. E poi l'altro nome che si fa sempre è quello di Kelela. Con cui ha lavorato nella produzione e in parte della scrittura per quattro pezzi in totale dall'album Take Me Apart del 2017. So perché penso sempre che Kelela sia inglese, invece no, è americana. Già noi la conoscevamo per i primi EP, Cut For Me e Hallucinogen. E questo è appunto uno dei quattro pezzi che ha anche contribuito a scrivere Arca, ovvero On and On. E ce la teniamo in sottofondo per tirare un po' le fila del tutte queste cose che stiamo dicendo. Questi appunti disordinati. Che appunto viene sempre definito questo Kick One con il disco pop o il disco più pop, come se anche un po' assumendo questa persona, questo concetto di diva, anche attraverso le sue trasmissioni come la Radio Diva Experimental FM, un po' come se Arca si stesse un po' svendendo appunto al pop o ci avesse un po' questo viaggio di diventare un'icona pop, una pop star in qualche modo. Che ovviamente le sue influenze infantili, cioè cresciuta ascoltando Alicia e Madonna, ma anche Io Tecre, Nine Inch Nails e Marilyn Manson grazie ad un fratello maggiore, poi Aphex Twin, Massive Attack e Bjork. Però appunto questa versione di pop è, ho letto una recensione, quasi un disco pop antipop, o quello che il pop sta diventando. questi ultimi anni, guidato sempre da questo concetto di fluidità, sia nell'espressione di genere, cioè l'abbiamo visto proprio la sua evoluzione, dall'abbracciare la sua omosessualità. Ancora nel 2015 diceva: io non sento appartenere a un genere maschile né femminile, però non sono trans. Poi dal 2018 fare coming out come non binary e poi adesso come trans woman. E anche il concetto dell'album, come tutta la sua produzione, è appunto il dare voce e riconoscimento alle moltitudini. E una cosa che ci accomuna tantissimo è non credere e supportare un concetto di ma ovvero non bisogna scegliere, le cose non devono essere mutualmente esclusive, una cosa non esclude l'altra, ma una cosa può affiancarsi all'altra. E siamo arrivati al terzo album omonimo del 2017, il disco in cui, diciamo, riabbraccia l'uso della sua voce cantando soprattutto in spagnolo. Questi tre pezzi sono Anoche, Saunter e Desafío, un modo di cantare che ricorda un po' le arie liriche e un po' Björk, perché infatti lei racconta sempre come Björk l'abbia convinta a riprendere a cantare sulla sua musica. Di far vomitare il mio subconscio più cose possibili, perché quando faccio musica non mi giudico, e in questa cosa ha preso a modello Arthur Russell, soprattutto per il concetto di buona la prima, first thought, best thought, cosa che ha fatto anche nel registrare questo album. Come accennavo prima, di solito registrazioni in sessioni uniche, tranne che in un caso le parole totalmente improvvisate, lei dice: non mi sono poi mai seduta a cambiare una parola che magari non mi piaceva per sostituirla con un'altra. Il suono di arca è violenza e gioia, divertimento e paura, oscurità e luce. Trovo questo pezzo meraviglioso. Gender e sessualità in continua trasformazione con la sua musica, ma non gender disforia, ma gender euforia. E in questa fase della sua vita attuale sembra aver trovato appunto un equilibrio tra un'immagine pubblica oltraggiosa e la vita domestica tranquilla a Barcellona. È proprio l'artista ideale dei nostri tempi, in perenne e rapido mutamento, perché non è mai stanca della trasformazione, è sempre guidata dalla curiosità. Oggi ho letto una frase che diceva: la gente dice che curiosity killed the cat, cioè la gatta curiosa ci ha rimesso la vita, ma i gatti hanno 9 vite o 9 code e 7 vite, chissà. Ed è per questo che appunto dicevo, per Vice and Noisy è stata definita l'artista del decennio 2010-20. Questo è uno dei pezzi forti che sempre si nominano parlando di Kick One, ovvero Che lo che, featuring Rosalia. Cioè, a me piace un casino. Aquí con mi Ale estamos bendecidas. Bendecidas, bendecidas, tú estás bendecida. Más si tú te vienes para ver a mí. Estamos bendecidas. Estamos bendecidas. Bendecidas, bendecidas, tú estás bendecida. Más si tú te vienes para ver a mí. Una canzone che vede la partecipazione di Cardo Pusher, producer venezuelano, anche lui di base a Barcellona, e la presenza di uno strumento, il furruco, ovvero un tamburo a frizione, ovvero quel tamburo con un bastone sottile infilato nel mezzo, viene suonato così ed è uno strumento che Alejandra suonava da ragazzo. Si sono conosciute a un house party a Barcellona dopo il Sonar del 2018. Scoprendo appunto che hanno un sacco di cose in comune, l'immagine, il concetto che hanno insomma dell'essere showgirl, della performatività, della fatica comunque che ci vuole e di un lavoro che richiede anche anni, ed avere anche in comune il fatto di essere come rappresentante di una certa tradizione musicale, ma di non voler entrare nel gioco o di essere rappresentanti di questa tradizione musicale, né di essere quelle che la rifiutano, la rigettano, la ripudiano. Perché hanno un amore comune per la musica tradizionale e il folklore, però e quindi anche il desiderio di mantenerla viva, e lo fanno infondendo appunto vita nuova. E Alejandra dice proprio questo il ruolo dei musicisti, di sintetizzare le influenze prima che questo accada nel cinema per esempio o nella moda. E parte di ciò che rende la musica così magica per me è che ti permette di mischiare e sintetizzare delle forme apparentemente disparate e incompatibili in un modo molto magico. Visto che Rosalia ha collaborato già con mezzo mondo musicale, Non ci siamo fatti sfuggire l'occasione per mettere questo pezzone, ovvero il remix a firma di Gesaffelstein, anche lui è presente tra i mille produttori di Jesus, di un pezzo dell'anno scorso a Palais. E ce la teniamo sotto per leggere invece altri pezzi dalla recensione di Arca, il terzo album di cui abbiamo sentito tre pezzi poc'anzi, cui Pitchfork diede un 8.5. Il suono di Arca è un suono di caos e contorsioni, ulteriormente definito dai visual disturbanti di corpi in mutamento, in trasformazione, morphing, sospesi nello spazio, questi visual fatti con Jesse Kanda. Le 13 canzoni di Arca non rappresentano quindi un voltafaccia per Gersi e neanche una reinvenzione, ma piuttosto immagina cosa accadrebbe se mischiando la musica del suo passato, le canzoni pop che ha fatto da ragazzino, i romantici Schumann e Mendelssohn che ha studiato, cosa sarebbe successo mischiando queste passate influenze, perché lei dice infatti ricantare in Arca è stato un po' come riabbracciare il mio adolescente, mischiarlo invece con il rumore radicale e del pop che appunto rompe i confini, il tipo di pop che ha inventato come Arca, e quindi organi, pianoforti e strumentazione classica uniti invece a una produzione caleidoscopica e veramente all'avanguardia. E questa giustapposizione viene sottolineata ancora di più dalla sua voce, che presenta con orgoglio, che indossa orgogliosamente con tutte le sue imperfezioni. E appunto facendo riferimento al significato di Arca come appunto contenitore cerimoniale per oggetti preziosi, il recensore dice: questi spazi vuoti di questa scatola Arca li sta riempendo con la miglior versione possibile di se stesso, passato, presente e futuro. Dicevamo delle molteplici pubblicazioni, intanto i primi due dischi, Xen e Mutant, sono stati pubblicati dalla Mute Records, mentre già con Arca c'è il passaggio alla XL Recordings, come questo attuale Kick One. Poi nel frattempo, dopo il 2017, compone anche la musica per un videogame, Red Dead Redemption 2, che ha avuto moltissimo successo. E nel febbraio del 2020 il suo primo output è questo mix dal titolo, anche qui, 5 segni grafici, in questo caso la et, in spagnolo arroba, quindi et mix. Qui stiamo ascoltando un pezzo, uno dei pezzi più calmi e tranquilli, che si chiama Forma. Questo esiste sul suo canale YouTube nella sua interezza, con tutte le tracce separate con i nomi, con dei visual veramente incredibili, e questo è uno dei pezzi più tranquilli e sereni e riposanti. E dopo il 2017 appunto c'è una pausa, e Arca dice: volevo che ci fosse del silenzio tra il mio album omonimo e qualsiasi cosa fosse arrivata dopo, perché è stato un disco molto luttuoso, perché affrontava il concetto di vergogna, dopo aver fatto la transizione, ho preso quella dissonanza e l'ho messa al di fuori di me. Scambi qualcosa con qualcos'altro, perché la transizione può cambiare un concetto di sicurezza, quanto può essere sicuro un posto rispetto ad un altro. La transizione può rendere gli spogliatoi un incubo, ti può far appunto far fare commenti a degli estranei mentre stai facendo la spesa, perché crede la dissonanza attorno a te, ma almeno non è una dissonanza che devi nascondere dentro di te. Ed in questo modo, paradossicamente, che io sono arrivata alla gioia. E l'album Kick One è la prima volta che la mia timidezza mi permette di articolare certe cose. È come la canzone di Morrissey, Smith. La timidezza è tanto bella, ma ti impedisce di fare le cose che vorresti. E mi ci è voluto un sacco di tempo per articolare delle cose, perché stavo passando tante cose a livello personale, anche insomma gli sbalzi d'umore per l'assunzione di ormoni, e quindi volevo che ci fosse del silenzio, volevo prendermi un po' di tempo e avere del silenzio tra Arca e quello che avrei fatto dopo, perché non ho mai smesso di fare musica. Però ho pensato che sarebbe stato meglio avere un po' di distanza da quello che avevo fatto prima. E quello che è venuto dopo, in realtà ho sbagliato, tutti i featuring non sono in fila perché sono interrotti da questo Rip the Slit. È il pezzo più ripetitivo. E Alejandra dice è forse il pezzo che conduce più organicamente a ciò che immagino sia questo album. Un po' birichino, è una kinky song. E mi ricorda appunto come uno stato di trance, quando ripete una cosa tante volte che comincia a perdere significato o ad assumere altri significati. E mi ricorda appunto lo stato mentale, il safe state in cui ero quando avevo fatto per esempio i primi EP, Stretch 1 and 2. E riguardo all'album dice: avevo quest'idea che questo disco doveva raggiungere un nuovo pubblico. Mi sono presa tempo e quando lo stavo per pubblicare questo disco e andare in tour dopo tanto tempo, tutto è cambiato a causa della pandemia. E quindi mi sentivo combattuta tra il desiderio di connect, di entrare in contatto con dei nuovi pubblici, e anche la paura di alienarmi, di alienare qualche parte di me facendo questa cosa. Ma dopo che ho superato i 30 anni, cioè questa paura è passata. Ho pensato che la cosa più importante era metterci la faccia e condividere la mia storia, perché magari questo poteva aiutare qualcun altro, qualcuno più giovane, qualcuno che non ha nessuno che gli dica che quello che loro trovano bello è accettabile, aiutare questo qualcuno a sentirsi meno sbagliato o un paria, outcast. Però ci è voluto tempo per riuscire ad articolare questi concetti. Ma sebbene il disco, non l'abbiamo detto, è uscito pubblicamente il 26 giugno, ufficialmente, pubblicamente, in realtà era già leaked in internet a marzo. E in mezzo, appunto, ci sono state anche altre cose, nel senso che a maggio 2020 ha pubblicato un altro pezzo di musica, non so come definirlo, che è definito circumflex, perché sono 5 accenti circumflessi, appunto come parte delle sue trasmissioni radio della Experimental Diva FM. Questo pezzo si chiama Long Game. Abbiamo detto anche che l'anno scorso in autunno sono state queste quattro serate in questo spazio performativo The Shed, dove era tutto improvvisato, tori meccanici, protesi, make up in scena, ferimenti anche, interazione totale con il pubblico, assenza totale appunto di copione, di scalette. E all'inizio di giugno, quindi sempre prima dell'uscita ufficiale dell'album, c'è stata la pubblicazione nel Bandcamp di Shy Girl di questo pezzo dal titolo Unconditional, scritto in con lettera minuscola, una collaborazione tra Shy Girl e Arca, i cui proventi sono andati, vanno 100% tutti in beneficenza a Black Lives Matter e Inquest UK. E è questo pezzo. E ci sono anche indirizzi di Black Trans Charities a cui donare. Because of me, keep waiting on the receipt till I'm only the stand. E lei scrive: mi sento sopraffatta questa settimana. Era l'inizio di giugno, inondata da immagini e notizie che scatenano emozioni a cui non ero pronta. E ho dovuto fare una pausa, cercare quasi come un salvagente, un piccolo momento per riprendermi prima di ritornare alle news, per tuffarmi in una profonda riflessione e nella protesta, che protestare mi ha fatto ricordare che non sono sola, la possibilità che altri possano sentire la stessa cosa mi ha fatto desiderare di parlare, di espormi, di fornire, di fare qualcosa. E siccome trovo sia sollievo che potere nella musica, è questa risorsa che io posso condividere, con lo scopo di costruire forza emotiva e legami in questa epoca di risveglio, riflessione e protesta. E forse dopo quella con Rosalia, con Bjork, la collaborazione di cui si parla di più è quella con Sophie. E Alejandra dice: devo fare una collaborazione con Sophie, sapevo che doveva essere la cosa più fuori di testa possibile. Questa ripetizione di menealo, menealo, menealo, che è tipo shake it, che mi viene sempre in mente quando io faccio delle pulizie a casa. E infatti questo pezzo ricorda molto Sophie, Face Shopping. Questa canzone è la parte di Sophie che gioca con i pronomi, dice lei è il mio boyfriend, lui è la mia migliore amica. E Arca dice questa canzone doveva essere veramente folle e penso che siamo andate anche oltre quello che io mi immaginavo e speravo. Il senso di caos è un pezzo molto ritmico, c'è tanto di Sophie in questo pezzo, non solo la sua voce ma anche i suoni, perché è stato un pezzo veramente collaborativo. È stato bellissimo lavorare con un'altra donna trans e essere semplicemente noi stesse. È un pezzo che mi dà molto entusiasmo ed energia. Tra l'altro leggo anche che è un arrangiamento addizionale a parte proprio di Carlos Sainz. E quindi questo disco proprio celebra questa nuova sicurezza di sé. La maggior parte dei pezzi proprio comunicano vulnerabilità da una parte, ma appunto senza la paura di mostrarsi vulnerabili. Poi lei dice: solo quando fallisci, quando cadi a pezzi, puoi ricostruirti, puoi ricrescere. Anche questa qui è una cosa che dice dai tempi in cui è uscito Xen. Ma volevo proprio aprirmi le viscere. Poi se non funziona, so quello che posso poi eliminare. Quindi cadi a pezzi, ma poi magari i pezzi li rimetti in modo diverso e alcuni li elimini. E stavo ascoltando Infatuation dall'ultimo album di Sophie, tuttora, ormai, insomma, c'è qualche anno, Oil of Every Person Inside. Dicevo, Alejandra adesso abbraccia proprio questo suo nuova sicurezza e divinità, demone, sperimentatrice e icona pop, ho scritto. E quindi il tema dell'album, come dicevamo, è la non binarietà. E dice: mi identifico come donna trans e vedo la mia identità di genere come non binaria. Più che un'identità è una mentalità, appunto, per mettere tutte queste varie parti di sé, quindi tutti questi generi musicali, tutti questi umori, questi mood, dargli riconoscimento, farli convivere, non dover scegliere tra una cosa o un'altra, permettere una trasformazione, shape shifting ancora più fluida. Dare spazio quindi a tutte le personalità, a tutti i self states, permettere a tutti i self states di occupare lo stesso spazio in armonia. sempre questo riferimento alla vicenda personale, all'identità di genere, perché la musica è esattamente lo specchio dei suoi stati esistenziali. Dove la transizione non è un atto di correzione, ma un'espressione. Uno dice, ah, correggo un errore della natura, disforia di genere, sono nato nel corpo sbagliato. Ma invece il riconoscimento che tutti siamo in transizione in tutta la nostra vita, se non altro per le fasi dell'età che attraversiamo e che ci cambiano. E appunto Vice dice Arca, che nel 2018 ha fatto coming out come non binary, perché questo articolo era prima della, insomma, di quest'anno, incarna praticamente ogni cosa positiva che è sinonimo degli anni, del decennio, degli anni 10, perché è stata variamente a livelli vari e in momenti diversi una decostruttrice hip hop, una compositrice sperimentale, un'icona queer, una visionaria della moda, una sostenitrice del BDSM, un immigrante, una gamer, una DJ, una produttrice pop d'avanguardia, un otaku, una modella, una trendsetter, un'artista performativa, una millennial, una file sharer, condividitrice di file, una provocatrice nei social media, un attivista e ovviamente una innovatrice musicale. E tutto ciò rifiutando al tempo stesso di essere definita da una qualunque di tutte queste identità. Mucha, pero cómo decidirme. Ando como abanico de un lado para otro, mirando a tu hombre que pasa mi aborto. Si me detiene, te juro que yo me exploto. Seguro papi me lleva un palma en el coño. E questo pezzo bellissimo che riprende appunto la frase musicale Yark di Wound tratto da Xen si chiama Machote, è un'altra canzone d'amore di questo disco. La cosa molto interessante è che come fosse un autocover e una cover, che appunto musicalmente riprende Wound. Invece come testo, cambiando il genere, cambiando il sesso, mettendolo appunto al maschile, cioè chi ero un maciote, chi ero un maschione, un maschietto, è la trasformazione di un pezzo del 2003 di un duo colombiano che si chiamavano Latin Dreams, tra l'altro molto femminei invece come aspetto, anche se macio latini, e un pezzo che si chiamava Chi era una chica, cui appunto Arca ha cambiato soggetto, oggetto, e è veramente un pezzo dolcissimo. Che comunque anche Wound ricorda anche molto Bjork. E tra le ultime produzioni, proprio il giorno dopo dell'uscita ufficiale del disco, il 27 giugno, esce questo mix. Anche qui, com'è il titolo? Praticamente sono 5 segni più e sotto 5 segni meno, cioè più o meno, più o meno, più o meno, più o meno, più o meno, più o meno, più o meno. Questo pezzo si chiama Voglia GL, tra parentesi è La Hoya. E è Resident Advisor for BBC Radio 1 Mix Series. Ovviamente è tamarrissimo e in quanto tale fighissimo. Tornando appunto alle molteplici identità di Alejandra Gersi, invece una costante, un tratto costante che la definisce appunto la fluidità e un gusto per mischiare i generi, decostruire campioni, e questo mutamento, slittamento delle identità, come dice il detto, arca sempre contenuto moltitudini, e tracciare il suo arco creativo è come guardarla rivelarsi in tempo reale. Con ogni fase successiva della sua carriera ha fatto un grande salto in avanti, sia artisticamente che personalmente. Se gli anni 10 sono stati un decennio pieno di caos e creazione, decostruzione, scoperta, esposizione e esaminazione, di rivolta e baldoria, allora Arca è il vascello, il contenitore che porta tutti questi eccessi. Siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione. Ancora una volta un'altra release in mezzo a settembre, il volume 2 di alcune compilation che fa per la sua fan base. I suoi fan sono i Mutants. Si chiama Mutants Volume 2 Riot. Questo pezzo si chiama Mallorca. Già il 19 giugno era uscito il primo volume, che si chiamava 1312. E sono delle mixtape fatte per appunto la sua comunità su Discord. Potete anche iscriversi al suo canale su Twitch, perché fa dei live stream incredibili. E questo pezzo molto delicato, molto bello, ci piaceva inserirlo. E siamo arrivati quindi alla fine, e quindi c'è sempre la parte delle reviews. Una media di 74 su 100 su 16 recensioni, partendo dal 5 di The Quietus e The Wire, fino a tanti 8, al 7,5 di Pitchfork e al massimo del 9 di Exclaim. The Wire dice: non è un'unità utopica come avrebbe voluto, ma sperimentando, insomma, qualche volta si fallisce, quindi questo è un 5. Anche Q-Mag gli dà 6, ma dice: i suoi multipli sé si scontrano più spesso di quanto non si connettano. Poi Pitchfork dice in Kick One: Arca naviga attraverso gli spazi tra mondi, linguaggi, generi musicali e gender. Pop, avanguardia, entrambi e nessuno dei due. Infatti Slant Magazine è quello che dice un anti-pop pop album, che si conclude con questa aria, questa ballata di quasi 6 minuti, un'altra canzone d'amore, non queda nada, non resta niente. Non resta niente in me, tranne te. Non c'è neanche un angolo in cui non sia penetrato il tuo calore. La canzone d'amore definitiva dedicata a Carlos Saez, in cui Arca mostra la sua gratitudine per farla sentire completa e sicura di sé. Ma c'è anche una curiosità. Arca dice che è anche riferita a Selena Quintanilla, una pop star degli anni 90, uccisa a 24 anni dalla sua amica collaboratrice nel 95, su cui è stato fatto un film Selena, interpretato da J.Lo. Che era un artista di musica tejano, che è questa unione di musica messicana, musica con influenze statunitensi, ma anche europee, tipo polka, valzer. Cioè, perché sentivo di avere molto in comune con lei, sono cresciuta ascoltando Alicia e Madonna, ma non avevo tante cose in comune con loro, il loro background, però Selena era qualcuna che potevo sentirmi invece più in contatto, appunto per questo anche mio viaggiare tra Venezuela e Stati Uniti, questa doppia identità, anche linguistica e culturale. Poi ancora Slant Magazine dice: Kick One, una lettera d'amore, a volte sconcia a se stessa. O anche al proprio partner, una celebrazione di autorealizzazione dovuta a aver trovato un'armonia dentro di sé o la comunione con l'altro. Il Music dice che è un 8. Questi estremi dell'album, questa forza, vulnerabilità, aggressività e attrattiva sono uniti in un'armonia che fa brillare ogni parte della sua musica. Delle contraddizioni che coesistano unapologetically, cioè senza dover chiedere scusa a nessuno, in modi meravigliosi e genuini, rendendo questo disco un ritratto dell'artistry, dell'essere artista di Arca, un ritratto completo e trionfante. Anche Exclaim, che dal voto più alto, dice: il suono di Arca, corrosivo e meraviglioso, disintegrante e liquido, ha aiutato a dare forma al suono del futuro. Una visione di futuro pienamente realizzata, thrilling and unsettling, cioè eccitante, emozionante ma anche disturbante. E Beats per Minute parla di sovraccarico sensoriale. Quindi una celebrazione a livello musicale dei molteplici sé che ci abitano e che non negano, non sono in contraddizione con il nostro essere interi, un'unità. Perché per essere normali non dobbiamo essere una cosa fissa, non stop, perché siamo sempre in flusso, o come dice Arca, un ecosistema di piccoli self-states con la dignità di un essere intero. D'altra parte, i suoi role model sono musicalmente Wendy Carlos, la musicista elettronica trans, autrice appunto della colonna sonora di Arancia Meccanica, e dal punto di vista proprio del contesto esistenziale culturale Genesis Piorridge. Tante altre cose ci sarebbero da dire, ma il pezzo finisce. E ciao da Claudia Mighty Mouse.